2. La primavera era tornata con il canto degli uccelli e il profumo dei nuovi fiori. Il giorno stava finendo, il rossore del tramonto stava svanendo sotto le sfumature viola della notte. Lelia stava sognando sulla terrazza di Villa Viola. Era una ricca casa che un italiano aveva costruito per la sua amante all'ingresso di queste montagne. Lì era morta di dolore e l'italiano, non volendo vivere in un luogo che riportava alla mente ricordi dolorosi, aveva affittato a estranei i giardini che contenevano la tomba e la villa che portava il nome dell'amata. Alcuni dolori si alimentano da soli, ci sono alcuni che si spaventano e scappano come fossero rimorsi. Morbida e pigra, come la brezza, come l'onda, come questo intero giorno di maggio, così dolce e così sonnolento, Lelia, sporgendosi dalla balaustra, si tuffò con gli occhi nella più bella valle che il piede dell'uomo civilizzato abbia mai calpestata. Il sole era tramontato dietro l'orizzonte, eppure il lago conservava ancora una tonalità rosso fuoco, come se l'antico dio che doveva tornare tra le onde ogni sera si fosse davvero immerso nella sua massa trasparente. Lelia stava sognando, ascoltava il mormorio confuso della valle, le grida dei giovani agnelli rossi che venivano a inginocchiarsi davanti alle loro madri brune, il rumore dell'acqua le cui chiuse cominciavano ad aprirsi, le voci dei pastori alti e abbronzati che hanno un profilo greco, stracci pittoreschi e che cantano in tono gutturale mentre scendono dalla montagna con il fucile in spalla. Ascoltò anche l'esile campana che suona sul collo delle lunghe mucche soriane e il sonoro abbaiare di quei grandi cani di razza primitiva che fanno balzare l'eco sui fianchi dei burroni. Lelia era calma e radiosa come il cielo. Stenio fece portare l'arpa e le cantò gli inni più belli. Mentre cantava, la notte scendeva, sempre lenta e solenne, come gli accordi bassi dell'arpa, come le belle note della voce soave e maschile del poeta. Quando ebbe finito, il cielo era perso sotto quel primo manto grigio di cui si veste la notte, quando le stelle tremanti osano appena mostrarsi lontane e pallide come una debole speranza in mezzo al dubbio. Intorno all'orizzonte si disegnava appena una linea bianca persa nella nebbia. Era l'ultima luce del crepuscolo, l'ultimo saluto del giorno. Poi le braccia caddero, il suono dell'arpa si spense e il giovane, prostrandosi davanti a Lelia, le chiese una parola d'amore o di pietà, un segno di vita o di tenerezza. Lelia prese la mano del piccolo e se la portò agli occhi. Stava piangendo. Oh, gridò con trasporto, stai piangendo, stai finalmente vivendo. Lelia passò le dita tra i capelli profumati di Stenio e attirandogli la testa sul petto lo coprì di baci. Raramente aveva sfiorato con le labbra quella bella fronte. Una carezza di Lelia era un dono del cielo tanto raro quanto un fiore dimenticato dall'inverno e ritrovato sbocciato sulla neve. Così questa improvvisa e bruciante effusione costò quasi la vita al fanciullo che aveva ricevuto il suo primo bacio di donna dalle fredde labbra di Lelia. Impallidì, il suo cuore smise di battere e la spinse via con tutte le sue forze perché non aveva mai temuto così tanto la morte come in quel momento in cui la vita gli si era rivelata. Aveva bisogno di parlare per sfuggire a quelle terribili carezze, a quell'accesso di felicità che era doloroso come una febbre. Oh, dimmi, gridò sfuggendo dalle sue braccia, dimmi che finalmente mi ami. Non te l'ho già detto, rispose con uno sguardo e un sorriso che Murillo avrebbe regalato alla Vergine portata in cielo dagli angeli. No. Non mi hai detto questo, rispose. Mi hai detto un giorno, quando stavi per morire, che volevi amare. Questo significa che quando si perde la vita ci si pente di non averla goduta. Ci credi, Stenio? Disse con un tono di beffarda civetteria. Non credo a nulla, ma cerco di indovinare. Oh, Lelia, mi hai promesso di provare ad amare, non mi hai promesso altro. Senza dubbio, disse Lelia freddamente. Non ho promesso di riuscirci. Ma speri di potermi amare alfine, disse con una voce triste e gentile che fece vibrare tutta l'anima di Lelia. Lo avvolse con le braccia e lo strinse a sé con una forza sovrumana. Stenio, che voleva ancora resistere, si sentì dominato da questo potere che lo agghiacciava di paura. Il suo sangue ribolliva come lava e si gelava come il suo. Era alternativamente caldo e freddo, era cattivo e buono, era gioia, era angoscia. Non lo sapeva. Era l'uno e l'altro, era più di questo, era il paradiso e l'inferno. Era l'amore e la vergogna, il desiderio e la paura, l'estasi e l'agonia. Alla fine gli tornò il coraggio. Ricordò quanti deliranti desideri aveva invocato per quell'ora di tumulto e di eccitazione e si disprezzò per la pusillanime timidezza che lo frenava. E abbandonandosi a un impulso che aveva qualcosa di vorace e selvaggio, travolse la donna a sua volta e la abbracciò. Incollò la sua bocca a quella bocca morbida e gentile il cui contatto ancora lo stupiva. Ma Lelia, allontanandolo improvvisamente, gli disse con voce secca e dura: «Lasciami in pace, non ti amo più». Stenio cadde a terra sulle lastre della terrazza. Fu allora che pensò davvero di essere vicino alla morte, mentre sentiva la freddezza della disperazione e della vergogna strangolare improvvisamente il furore dell'amore e la febbre dell'attesa. Lelia rise. La rabbia lo rianimò, si alzò e decise per un attimo se ucciderla o meno. Ma questa donna era così indifferente alla vita che non c'era altro modo di pareggiare i conti con lei che spaventarla. Stenio cercò di essere filosofico e freddo, ma dopo tre parole cominciò a piangere. E allora Lelia lo baciò di nuovo e, poiché lui non osava ricambiare le sue carezze, lo travolse fino a inebriarlo. Poi gli mise una mano sulla bocca e lo allontanò, quando lo sentì rianimarsi e tremare di piacere. «Vipera!» gridò mentre cercava di alzarsi e di scappare da lei. Lei lo trattenne. «Torna», disse, «torna al mio cuore. Ti ho amato così tanto poco fa, quando eri così timido e ingenuo da ricevere i miei baci quasi tuo malgrado. Quando mi hai detto: speri di potermi amare, eri così umile allora. Resta così, è così che ti amo. Quando ti vedo tremare e sottrarti all'amore che ti cerca, mi sembra di essere più giovane e più ardente di te, e questo mi rende orgogliosa e mi affascina. La vita non mi scoraggia più perché immagino di poterla dare a te, ma quando diventi più audace, quando mi chiedi più di quanto io possa sentire, perdo la speranza. Ho paura di amare e di vivere. Soffro e mi pento di essermi ingannata ancora una volta». «Oh, povera donna», disse Stenio, sopraffatto dalla pietà. «Oh, non puoi rimanere così timorosa e palpitante sotto le mie carezze», gli disse, attirando di nuovo la sua testa sul suo grembo. «Lascia che passi la mia mano intorno al tuo collo, bianco e levigato come un marmo antico. Lascia che senta i tuoi capelli, così morbidi ed elastici, arrotolare e aggrapparsi alle mie dita. Com'è bianco il tuo petto, giovanotto, come batte forte e violento il tuo cuore. Questo è un bene, figlio mio. Ma questo cuore contiene forse il germe di qualche virtù maschile? Riuscirà a vivere senza corrompersi o inaridirsi? Ecco la luna che sorge sopra di te e che riflette il suo raggio nei tuoi occhi. Respira questa brezza. L'erba è il prato in fiore. Riconosco l'emanazione di ogni pianta. La sento passare una dopo l'altra nell'aria che le porta via. Ora è il timo selvatico sulla collina. Poco fa erano i narcisi sul lago e ora sono i gerani in giardino. Come devono gioire gli spiriti dell'aria nel perseguire questi profumi sottili e nell'immergersi in essi. Sorridi, mio grazioso poeta, addormentati così. Addormentati», disse Stenio in tono di sorpresa e di rimprovero. «Perché no? Non sei calmo? Non sei felice ora?» «Felice, sì, ma sereno». «Beh, sei uno sciocco», disse lei spingendolo via. «Lelia, mi rendi infelice, lascia che ti lasci». «Vigliacco, come hai paura di soffrire, forza, vattene». «Ma non posso», rispose ricadendo in ginocchio. «Mio Dio», disse baciandolo, «perché soffrire? Non sai quanto ti amo, mi piace accarezzarti, guardarti come se fossi mio figlio. Non sono mai stata madre, ma mi sembra di provare per te lo stesso sentimento che avrei provato per mio figlio. Mi compiaccio della tua bellezza con un candore, con un infantilismo materno. E poi, in fondo, che sentimento posso provare per te? Quindi non puoi provare amore? Disse Stenio con voce tremante e con il cuore spezzato. Lelia non rispose. Passò convulsamente le mani tra i riccioli di capelli neri che si arricciavano sulla fronte del giovane. Si chinò verso di lui e lo contemplò, come se volesse riassumere in un solo sguardo la forza di molte anime, in un solo istante l'ebbrezza di 100 esistenze. Poi, la creatura ambiziosa e impotente, trovando il suo cuore meno ardente del suo cervello e le sue facoltà al di sotto dei suoi sogni, si scoraggiò nuovamente della vita. La mano le cadde sul fianco, morta. Guardò tristemente la luna, respirò la brezza, gonfiando le narici con qualche cosa di selvaggio. Poi si portò la mano al cuore e respirò dal profondo del petto. Ahimè, disse con voce irritata e sguardo cupo. Felici coloro che sanno amare. 3. Viola. In fondo alle terrazze del giardino c'era un piccolo fiume che scorreva sotto la fitta ombra dei tassi e dei cedri e affondava sotto i loro rami pendenti. Sotto uno di questi misteriosi archi, una tomba di marmo bianco si specchiava nell'acqua, pallida tra i riflessi scuri della vegetazione. Appena un soffio furtivo di brezza scuoteva gli angoli puri e tremanti del marmo riflesso nell'onda. Un grande convolvolo aveva invaso i fianchi e appeso le sue ghirlande di campanelle blu intorno alle sculture, già annerite dalla pioggia e dall'incuria. Il muschio cresceva sui petti e sulle braccia delle statue inginocchiate, i cipressi piangenti, lasciando cadere languidamente i loro rami su quelle fronti livide, stavano già avvolgendo il monumento affidato alla protezione dell'oblio. Questa è la tomba di una donna morta d'amore e di dolore, disse Lelia, scostando l'erba lunga che nascondeva l'iscrizione. È un momento pieno di religione e poesia, disse Stenio. Guarda come la natura sembra essere orgogliosa di possederla, come lo abbracciano dolcemente questi festoni di fiori, come baciano teneramente i suoi piedi questi alberi. Povera donna morta d'amore, povero angelo esiliato sulla terra e traviato per vie umane. Dormi finalmente. Nella pace della tua bara non soffri più, Viola. Dormi come questo ruscello, distendi le braccia stanche nel tuo letto di marmo, come questo cipresso piegato su di te, Lelia. Prendi questo fiore dalla tomba, mettilo sul tuo petto, respiralo spesso, ma respiralo in fretta, prima che separato dal suo stelo perda quel profumo virginale che forse è l'anima di Viola, l'anima di una donna che ha amato fino alla morte. Viola. Se c'è una qualche emanazione di te in questi fiori, se qualche soffio d'amore e di vita è passato dal tuo seno in questo misterioso calice, non puoi penetrare nel cuore di Lelia. Non puoi incendiare l'aria che respira e far sì che non stia più lì, pallida, fredda e morta, come quelle statue che si guardano malinconicamente nel ruscello. Bambino, disse Lelia gettando il fiore nella corrente pigra e seguendolo con uno sguardo distratto. Pensi che non abbia anch'io le mie sofferenze amare e profonde come quella che ha ucciso questa donna? Cosa ne sai tu? Forse è stata una vita molto ricca, molto completa, molto fruttuosa. Vivere d'amore e morire d'amore. È bellissimo per una donna. Sotto quale cielo di fuoco sei nata, Viola? Dove hai trovato un cuore così forte da spezzarsi invece di piegarsi sotto il peso della vita? Quale Dio aveva messo in te questo potere indomabile che solo la morte avrebbe potuto spodestare dalla tua anima? Oh, grande, grande tra tutte le creature! Non hai piegato la testa sotto il giogo, non hai voluto accettare il destino. Eppure, non hai affrettato la tua morte come quegli esseri deboli che si uccidono per non guarire. Eri così sicura che non saresti stata consolata che sei appassita lentamente, senza arretrare di un passo verso la vita, senza avanzare di un passo verso la tomba. La morte è venuta e ti ha preso, debole, spezzata, già morta, ma ancora radicata al tuo amore, dicendo alla natura: addio, ti disprezzo e non voglio salvezza. Tieni i tuoi benefici, la tua poesia deludente, le tue vanità consolanti e l'oblio narcotico e lo scetticismo della fronte di bronzo. Tieni tutto questo per altri. Io voglio amare o morire. Viola, hai persino rifiutato Dio. Hai francamente odiato quel potere iniquo che ti ha dato in sorte il dolore e la solitudine. Non sei venuta sul bordo di quest'onda a cantare inni malinconici come fa Stenio nei giorni in cui lo affliggo. Non sei andata a prostrarti nei templi come fa Magnus quando il demone della disperazione è dentro di lui. Non hai, come Trenmore, schiacciato la tua sensibilità sotto la meditazione. Non hai, come lui, ucciso le tue passioni a sangue freddo per vivere orgogliosamente e tranquillamente sulle loro macerie. Neanche tu, come Lelia. Si dimenticò di articolare i suoi pensieri e con il gomito appoggiato al mausoleo e lo sguardo fisso sulle onde non sentì Stenio che la pregava di rivelarsi a lui. Sì, disse dopo un lungo silenzio, è morta. E se c'è un'anima umana che ha meritato di andare in cielo è la sua, ha fatto più di quanto le fosse richiesto, ha bevuto la coppa dell'amarezza fino alla feccia e poi, rifiutando la benedizione che doveva scendere dall'alto dopo la prova, rifiutando la facoltà di dimenticare e disprezzare il suo male, ha rotto la coppa e ha conservato il veleno nel suo petto come un tesoro amaro. È morta. Morta di dolore. E noi viviamo. Tu stesso, giovane uomo, che hai ancora nuove facoltà per il dolore, vivi o parli di suicidio, e questo è più vile che sopportare questa vita contaminata che il disprezzo di Dio ci lascia. Stenio, vedendola più triste, iniziò a cantare per distrarla, e mentre cantava, le lacrime sgorgavano dalle sue palpebre stanche. Ma egli domò il suo dolore e cercò ispirazione nella sua anima avvilita per consolare Lelia. 4. Mi hai detto spesso, Lelia, che sono giovane e puro come un angelo del cielo. Mi hai detto qualche volta che mi ami. Proprio stamattina mi hai sorriso e mi hai detto: non ho felicità se non in te. Ma stasera hai dimenticato tutto e stai demolendo senza pietà le fondamenta della mia felicità. E così sia. Spezzami, gettami a terra come questo fiore che hai appena respirato e che ora abbandoni sulla ghiaia del torrente. Se trovi un po' di divertimento, una soddisfazione ironica e crudele nel vedermi portato via come lei e sballottato al capriccio dell'onda, strappami, calpestami sotto i tuoi piedi. Ma non dimenticare che il giorno, l'ora in cui vorrai raccogliermi e respirarmi di nuovo, mi troverai fiorito e pronto a rinascere sotto le tue carezze. Ebbene, povera donna, mi amerai come puoi. Sapevo che non potevi più amare come amo io, inoltre è giusto che tu sia la più adorata e la più sovrana di noi due. Non merito l'amore che meriti tu, non ho sofferto, non ho lottato come te. Sono solo un bambino senza gloria e senza ferite di fronte alla vita che inizia e alla lotta che si apre. Tu, attraversata dai fulmini, tu che sei stata buttata a terra 100 volte e ancora stai in piedi, tu che non capisci Dio eppure credi, tu che lo insulti eppure lo ami, tu, avvizzita come una vecchia e giovane come una bambina, Lelia, povera anima mia, amami più che puoi. Io sarò sempre in ginocchio per ringraziarti e ti darò tutto il mio cuore, tutta la mia vita, in cambio del poco che ti resta da darmi. Lasciati amare. Accetta senza disprezzo le sofferenze che porto come olocausto ai tuoi piedi. Lascia che consumi la mia vita e bruci il mio cuore sull'altare che ho preparato per te. Non compatirmi. Sono ancora più felice di te. È per te che soffro. Oh, se potessi morire per te, come Viola è morta per il suo amore, quanto piacere c'è in queste torture che mi metti in seno, quanta felicità c'è nell'essere solo il tuo giocattolo e la tua vittima, nell'espiare, giovane, puro e rassegnato, le vecchie iniquità, le mormorazioni, l'empietà accumulata sul tuo capo. Ah, se potessi lavare le macchie di un'altra anima con le pene della tua anima e il sangue delle tue vene, se potessi riscattarla come un nuovo Cristo e rinunciare alla tua parte di eternità per risparmiarle il nulla. È così che ti amo, Lelia. Non lo sai perché non vuoi saperlo. Non ti chiedo di piacermi, né tantomeno di compatirmi. Vieni da me solo quando soffri. Fammi tutto il male che vuoi, così da distrarti dal male che sta divorando te. E Ebbene, disse Lelia, in questo momento sono in preda a un dolore mortale. La rabbia fermenta nel mio petto. Vuoi bestemmiare per me? Forse questo mi farà sentire meglio. Vuoi lanciare pietre al cielo, insultare Dio, maledire l'eternità, invocare il nulla, adorare il male, chiamare alla distruzione le opere della provvidenza e al disprezzo il suo culto? Vediamo se sei capace di uccidere Abele per vendicarmi di Dio mio tiranno. Vuoi gridare come un cane spaventato che vede la luna seminare fantasmi sui muri? Vuoi mordere la terra e mangiare la sabbia come Nabucodonosor? Vuoi sputare la tua e la mia rabbia in veementi imprecazioni come Giobbe? Vuoi, giovane, puro e pio, immergerti nell'ateismo fino al collo e strisciare nel pantano dove io muoio? Soffro e non ho la forza di gridare. Forza! Ruggisci per me. Beh, stai piangendo. Riesci a piangere. Felici coloro che piangono. I miei occhi sono più secchi dei deserti sabbiosi dove non cade mai la rugiada e il mio cuore è più secco dei miei occhi. Stai piangendo? Bene. Ascolta una canzone che ho tradotto da un poeta straniero per distrarti.